Siamo tornati anche con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Per quanto riguarda la scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione, le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce Visionari, e poi c'è la pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio. Sull'home page ci ascolta la diretta, e sull'home page c'è anche Sostieni per tutte le modalità telematiche per contribuire finanziariamente alla vita di questa emittente. Eccoci con Andrea Semerano del Centro Culturale La Camera Verde per parlare del VAT Film a Piane di Bronzo, Tuscania. È cominciato il 19 agosto, andrà avanti fino al 31. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a tutti e benvenuti a tutti a Visionari. Tra l'altro non è la prima volta che sentiamo la Camera Verde in collegamento telefonico, questa volta per parlare del VAT Film. Ci racconti un po' di questa esperienza? È la seconda edizione di una rassegna d'arte e cultura che mette insieme un po' tutte le arti, dal cinema alla pittura ai libri, in questo spazio fantastico che è Piane di Bronzo, un luogo che è a Tuscania, 3-4 chilometri dalla cittadina, e siamo immersi nel verde, in 16 ettari di verde assoluto, e all'interno di questa factory di artisti abbiamo creato e creiamo tutti gli anni durante l'estate degli eventi, e quest'anno abbiamo riproposto la seconda edizione della VAT Film dedicata al cinema di Franco Brogani. Quindi abbiamo proiettato tutti i film di Franco Brogani, da Necropolis a Medicina e Misteri, e poi abbiamo inaugurato una mostra post dadaista, omaggio a Marray, dal titolo Da pre Marray, trapianto, consunzione e follia di un fotogramma, ovvero Quando la morte va in vacanza, dedicata chiaramente a Franco Brogani, regista amico di Mario Schifano, regista dei primi film di Carmelo Bene, un uomo e un artista straordinario. Poi all'interno della rassegna abbiamo altre giornate. Domani abbiamo una giornata dedicata, che c'è la ricorrenza della morte di Cesare Pavese, proiettiamo i film di Strobouillet. Oggi, sì. Federico, lo facciamo oggi che è il 27. Domani invece abbiamo un concerto di Caniolo Guercio. Caniolo Guercio, poi, tra l'altro, è un amico ed è stato anche nostro ospite qui al Radioteatro. Poi il 30 ci sarà un altro concerto di Gianluca Mei, e chiuderemo il 31 con la proiezione del film di Jean-Luc Godard, Film Socialism. Gli eventi sono tutti alle ore 21:30. E quindi diamo appuntamento a tutti quanti, se hanno voglia di fare una passeggiata da Roma, dintorni, alle Piane di Bronzo. Bene, senti, l'ingresso? No, l'ingresso è libero. Perfetto. C'è una tessera associativa che viene 10 euro, la tessera dà diritto, è annuale, quindi dà diritto poi a vedere tutte le manifestazioni annuali che si svolgono poi a Piane di Bronzo. Senti, visto che si tratta della seconda edizione, che bilancio fai dell'anno scorso? Ma ottimo, devo dire, siamo contentissimi, anche perché nonostante anche l'impegno poi della rassegna, l'impegno di cercare situazioni che non siano le solite, i soliti effimeri giochi, insomma, ma che tendino a farci stare insieme veramente. Quindi io sono estremamente contento di questo, perché ci permette di incontrarci, di incontrare gli artisti, di incontrare anche persone che vogliono solo vedere cose nuove. Quindi stare insieme vuol dire poi parlare, costruire altre idee, programmare poi per gli anni che devono venire altre situazioni. Quindi c'è diciamo un tentativo di voler resistere con questo pugno di idee che ci rimangono in tasca. Quindi cerchiamo insomma di andare avanti così. Sì, sì. Senti Andrea, per quanto riguarda le proposte video, quanti sono i lavori che avete e presenterete insomma in questa edizione? I video abbiamo proiettato ad esempio tutti i film di Franco Brogani, a parte qualcuno, e poi vabbè c'è questa giornata dedicata a Strobouillet che faremo questa sera con Dalla Nubar e la Resistenza e quei loro incontri, e chiudiamo con Godard, quindi sono film che comunque sono poco visti. E che resistono e che fanno chiaramente il cinema, lo fanno alla grande, sono il cinema, perché Strobouillet e Godard credo che oggi più di ogni altra cosa sono due pietre che uno deve assolutamente tenere presente. Quindi, cerchiamo all'interno di questa situazione così apparentemente marginale come può essere una zona di campagna, di portare un po' di umanità, diciamo, mezzo alla natura che chiaramente ci fischia dentro le orecchie con i grilli e le cicale, però noi la distraiamo con le idee che ci portiamo dietro. Proviamo. Senti Andrea, per il programma online dove si può cercare? Il programma online si può cercare sull'indirizzo sia della Camera Verde, che è www.lacameraverde.com, e sia su pianedibronzo.it. C'è tutto il programma fino al 31 agosto ci saranno gli altri eventi che faremo durante l'anno, quindi di volta in volta poi avremo modo di riparlarne. Sì. Ok Andrea, allora un abbraccio, può essere anche grazie. Che ci si veda questo fine settimana, non si Ma sa mai. Sarebbe fantastico Federico, sarebbe veramente fantastico, un in bocca al lupo a tutti voi di Radio Onda Rossa che siete magnifici. Grazie. E tenete duro, assolutamente. Okay. A presto Andrea, ciao. Un abbraccio, ciao. Andrea Semerano del Centro Culturale La Camera Verde per parlarci della seconda edizione del Watt Film, Piane di Bronzo Tuscania dal 19, è cominciato il 19 agosto e andrà avanti fino al 31. Eccoci con Alberto Valtellina di Lab 80 per parlarci della prima edizione di Notte Tascabile al Chiostro del Carmine a Bergamo, cominciato il 21 agosto, andrà avanti fino al 12 settembre. Alberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconti un po', visto che è la prima edizione, come è nata quest'idea? Eravamo a Torino, avevamo prodotto il film Il nemico, un veriero partigiano, il film che tra l'altro è stato anche recensito su Radio Onda Rossa, ed è intervenuto anche il regista Federico Spinetti, che è venuto a Roma appositamente. Avevamo prodotto questo film che è stato selezionato al Festival See You Sound a Torino, il primo festival dedicato completamente al cinema e musica. E parlando con gli organizzatori ci siamo resi conto che molti dei film che erano presentati erano in anteprima assoluta per l'Italia, non avevano una distribuzione, non avevano una prospettiva di distribuzione, erano stati sottotitolati, i file erano stati sottotitolati, e ci siamo detti perché non riproporre una selezione di questi film. Abbiamo pensato di riproporli a Bergamo in occasione della riapertura del monastero del Carmine, all'interno del quale il chiostro è una struttura meravigliosa. Da anni pensavamo di proiettare film all'interno di questa struttura, e grazie a un collegamento anche con il comune, con i ragazzi del gruppo del Teatro Tascabile, siamo riusciti a far partire questa iniziativa finalmente. Senti, a quanto ammontano i titoli che proporrete? Che state proponendo? Poi, perché è cominciato tra cortometraggio e lungometraggio, sono una ventina di film, per 14 serate. Adesso... Senti, quali sono stati i criteri di scelta per i titoli? Ma siamo partiti da una selezione, come ti dicevo, da una selezione di film dal Festival See You Sound. Sì. E poi abbiamo aggiunto alcuni titoli, visto che eravamo ospiti degli spazi del Teatro Tascabile, abbiamo per esempio scelto di proporre Goldfish and the Pelican Company di Peter Greenaway, che ha avuto alcune proiezioni ma non molte, pur essendo un film splendidamente eccessivo come tutti quelli di Greenaway. Sì. Abbiamo riproposto il gesto delle mani di Francesco Clerici, che era stato presentato a Bergamo Film Meeting e che sta facendo un giro enorme nei festival internazionali dopo la presentazione e il premio ricevuti a Berlino. Quindi c'era un po' l'idea di tenere l'arte nel senso più ampio del termine come filo conduttore, quindi la musica, il teatro, il gesto delle mani racconta. La costruzione è un film estremamente coinvolgente, pur essendo di una semplicità estrema, è il racconto di una realizzazione di una statua a cera persa dalla cera al bronzo, semplicemente in 77 minuti. Senti, c'è anche la possibilità di incontrare gli autori in qualcuna delle serate? C'è la presenza, allora, gli autori. Abbiamo nell'ultima serata abbiamo Paolo Campana, che è il regista di Vinilmania. Ci fa molto piacere presentare questo film, anche se non sono riusciti a fare quello che ci sarebbe piaciuto. Quindi è un mercatino, l'idea era quella di fare un mercatino del vinile, ma non siamo riusciti a, anzi in realtà abbiamo scelto di non farlo, perché dopo pochi giorni in un paese della provincia bergamasca, Stezzano, ci sarà un mercatino del vinile, anche se qualcuno da Roma vuole muoversi verso Stezzano, credo che a metà settembre ci sarà un mercatino del vinile. Quindi avremo Paolo Campana, che aveva realizzato questo film Vinilmania. Lui è un grande appassionato di vinile, ha girato il mondo alla ricerca di testimonianze su questo argomento. E tra l'altro era stato nostro ospite proprio per parlare di questo lavoro, sì, qui a Visionario. Sì, è in anteprima a Bergamo, ma naturalmente non per forza l'anteprima a Bergamo, l'anteprima internazionale. No, in realtà questa è una rassegna, quindi non abbiamo l'ambizione di essere festival, anzi ci fa piacere essere... A me personalmente piace organizzare dei secondi passaggi. Ci sono moltissimi film che passano ai festival a Torino, che passano a Bergamo Film Meeting, che sarebbe interessantissimo riproporre sul territorio e non sempre è possibile, mentre queste rassegne un po' trasversali riescono a intercettare dei film che altrimenti non sarebbero mai distribuiti in sala, quindi anche un po' questa la ragione. Sì. Senti, come mai questo titolo, Notte Tascabile? Ma perché noi con il Teatro Tascabile ormai da 6 anni portavamo avanti una rassegna che si chiama Laboratorio Tascabile, sempre con titoli difficili da rintracciare nelle sale, quindi appunto anche questo lavoro ancora di intermediazione tra il festival e il mondo. Era 6 anni, il settimo anno sarà il prossimo, a gennaio facciamo questa iniziativa che si chiama Laboratorio Tascabile, e quindi Laboratorio 80 e il Teatro Tascabile fa diventare Laboratorio Tascabile, qui è una mescolanza tra il cinema di notte e il Teatro Tascabile è diventato Notte Tascabile. Sono giochi linguistici anche un po' da bambini, ma ci siamo mossi molto da lì. Senti Alberto, per le informazioni sul programma online, dove ci indirizzi? Sul sito di Lab 80, che è www.lab80.it, c'è uno / Notte Tascabile, ma su tutto il sito, anzi se qualcuno vuole dare un'occhiata, se ci fossero degli esercenti che hanno voglia di distribuire qualche film del nostro catalogo, ci fa anche molto piacere, anzi a Roma ci piacerebbe trovare un gancio giusto per alcuni film a cui ci piacerebbe dare una spinta, insomma, bene, per bene. Il nostro catalogo. Alberto, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie ancora a voi, buon lavoro. Ciao, a presto. Ciao. Alberto Valtellina di Lab 80 per parlarci della prima edizione di Notte Tascabile al Chiostro del Carmine a Bergamo, cominciata il 21 agosto e andrà avanti fino al 12 settembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Eccoci con Stefano Di Polito, regista del film Mirafiori Luna Park, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buon pomeriggio, sono molto contento di sentirvi. Anche noi, anche noi. Allora, il nome fa subito venire in mente una fabbrica, raccontaci un po' di questa storia, Stefano. Sì, il nome fa venire in mente una visione dentro una fabbrica, per essere intero. No? E, allora, la storia è la storia che parte da una domanda, no? Come tutti i film. Che cosa penseranno gli operai Fiat degli anni Ottanta, quelli che siamo abituati a vedere, no? Nei documentari, Ma cosa penseranno nel 2015? Cioè, esistono ancora, sono vivi, hanno un ruolo nella società, purtroppo sono degli invisibili, no? Però siccome hanno lottato per la loro vita, hanno ancora qualcosa da dire e qualcosa da fare. Quindi questi tre attori straordinari che sono Alessandro Haber, Giorgio Colangeli e Antonio Catania diventano in questo film tre pensionati Fiat di Mirafiori Sud, del quartiere nato attorno alla fabbrica storica, la fabbrica più importante d'Europa volendo, e si oppongono a un abbattimento, questa volta dicono no, e quindi occupano questa fabbrica che è la Fiat, lo possiamo dire, e decidono di farne un grande Luna Park. Hanno questa visione, lo fanno perché vogliono tramandare il loro esempio, quest'epoca fatta di lotte, di diritti conquistati, che noi stiamo perdendo, la mia generazione di mezzo, ai loro nipotini, perché è un gesto quasi di speranza, ma anche un po' estremo, no? Dicendo almeno voi ricorderete quanto è stato importante lottare per la giustizia sociale che un po' si è persa in questo paese. Stefano, ci hai detto un po' della domanda di partenza, ecco, poi come ti sei mosso? Allora, ti dico, allora, tu dici, la visione l'ho avuta a Mirafiori, no? Perché io sono nato in quel quartiere e insomma poi sono andato un po' via, poi tornavo, da una periferia sempre difficile starci, però sentivo che si stava perdendo questo insegnamento, in particolare anche della mia famiglia, no? Perché poi tutto in un'opera prima nasce da un bisogno personale. E poi io ho iniziato a girare tra Torino e Roma, a cercare di capire chi poteva essere alleato di questa storia. E il principale alleato, a cui devo un grazie enorme, è Mimmo Calopresti. Io non lo conoscevo, ovviamente sapevo chi era, l'ho incontrato a Roma e lui mi ha guardato e mi ha detto: oh, bellissima questa sceneggiatura, questa storia, bisogna trovare un regista esordiente. Io ho detto vabbè, dai, troviamo. Lui mi fa: no, sei tu il regista, è la tua storia. E quindi io, diciamo, da sceneggiatore, no, da chi ha queste visioni che sono poi sulla carta scritta, anche grazie a lui mi sono fatto un po' i muscoli e sono diventato il regista. Devo dire che alla fine dell'esperienza, un'esperienza molto lunga, perché questo è un film fatto veramente con pochi soldi e i tre grandi attori si sono prestati a quest'opera, a questo grande gioco, l'hanno fatto in una maniera commovente, infatti commuovono gli spettatori, anche al Torino Film Festival c'è stata una reazione di quel tipo lì. E devo dire però che è vero che è un'opera prima, però è anche vero adesso che potevo farla solo io, perché ho dovuto sopportare delle fatiche incredibili che le puoi superare solo se veramente lo dedichi a un mondo che ami, no? Tutto questo impegno. Sì, e non è un caso la presenza di Calopresti, che a questo argomento ha dedicato alcuni suoi lavori. Certo, no, lui stava scrivendo anche lui un libro su suo padre, no? Che poi è uscito appunto l'anno scorso, e poi a tutti i lavori della fabbrica, dalla Thyssen, oppure i lavori legati al racconto dell'esperienza della Fiat in varie forme. E probabilmente lui dice che questo è l'ultimo film veramente operaio, come se chiudesse una sorta di anche di percorso narrativo, e che è giusto chiuderlo con un sogno, con una speranza, e anche vedendo questi operai che hanno 60, 65 anni, 70 anni e che girano un po' stralunati nel quartiere, un po' come i Buena Vista Social Club, e insomma vorrebbero risvegliare la mia generazione, che però purtroppo adesso un po' meno, però ha un po' voltato le spalle, no? Un po' se li è dimenticati. E invece l'idea non è di ritornare tutti in fabbrica, perché soprattutto chi è figlio di quel mondo lì sa quanta fatica c'era, però di risentire forte il proprio passato per cercare una strada in maniera più convinta per il verso il futuro. Insomma, è come se una volta a fine agosto a Torino e in altre città industriali si tornava a lavorare alla Fiat, no? Invece in questo caso si va a Mirafiori Luna Park, però si prende quell'energia lì, no? Per cercare di non mollare, di resistere, di essere meno invisibili. Sì. Stefano, io ho visto questo film e se non sbaglio nel cast c'è anche un attore che è un ex operaio della ThyssenKrupp. Bravo, certo, sì. L'ho conosciuto e tra l'altro si è dedicato al teatro per raccontare anche quella drammatica, tragica vicenda. Lui fa, diciamo, la parte della generazione dei quarantenni, no? Sì. Si chiama Carlo Marrapodi ed è veramente ha dato il cuore questo film. È stato anche, abbiamo girato anche in due stagioni diverse, lui è ritornato, sempre molto disponibile, e tra l'altro questa cosa che dici tu lui l'ha tenuta molto per sé, no? Nel senso che non l'ha sbandierata. Sì. Ed è frutto di un vero dolore, di una vera di una presenza sincera. Quando l'ho conosciuto è stato subito evidente che fosse lui quello che doveva in qualche modo fare questa parte. E poi mi ricordo sul set l'avevano vestito, no? E io l'ho visto e ho detto: ma è perfetto, cioè è vestito come me, no? E invece poi mi ha detto: guarda che non è vestito, è proprio come te, cioè, perché io cercavo una figura che rappresentasse un po' il figlio di Mirafiori, no? Sì. E me lo sono ritrovato proprio, sai, con gli stessi abiti che si usano lì in quartiere, no? E, senza essere troppo alla moda, per intenderlo. Ed è veramente una presenza molto forte. Con lui c'è una scena molto molto bella, credo, che molti indicano come una scena chiave, no? Che è quella di un pranzo in cui non si capisce con Haber assolutamente. Entrambi in realtà rivendicano un futuro migliore, però ormai sono due generazioni che non dialogano, no? Che non parlano una lingua diversa. E molte persone della mia età che hanno visto quel film, un po' in silenzio, avranno sicuramente pensato che erano scene già vissute nelle loro case, no? Nei loro pranzi di domenica, insomma, in cui ti ritrovi a fare le fila con una famiglia che purtroppo affronta questa crisi in una maniera inaspettata, no? Una crisi interminabile, una crisi che che sembra non abbia veramente fine. Stefano, visto che mi hai detto che il Mirafiori è anche nella tua storia, voglio chiederti qual è la vita oggi a Mirafiori, che è un quartiere nato in funzione di quella fabbrica. C'è una grande rimozione. Purtroppo quando si rimuove un simbolo come Mirafiori, che era il simbolo in cui andavano i grandi politici, i grandi intellettuali, quando si rimuove quel simbolo lì, il rischio è che anche le realtà più piccole non facciano più notizia, no? E quindi è come se tra virgolette ucciso Mirafiori, uccisa la Fiat, insomma, resa possibile la grande fuga, tutto ciò che succede poi a Taranto, a Terni, in Sardegna, o anche in realtà inaspettatamente floride, ma che poi diventano invece ciniche, no? E quindi preferiscono investire altrove. Ecco, tutta questa cosa qui è possibile se viene sepolto un simbolo. Allora, un po' l'appello che sto facendo anche a persone, diciamo, magari non legate al cinema, però legate alla politica o alla vita sociale. C'è Don Ciotti che ha prestato la voce nel film, no? Al prete, poi non dico altro, però c'è Don Ciotti che ha prestato volentieri la sua voce. È quello di sostenere questo film anche per tenere gli occhi aperti su questi ultimi movimenti che tendono proprio a dire facciamo a meno dei simboli, no? E poi però succedono delle cose come questa della Thyssen, oppure come l'Eternit, insomma, a Casale Monferrato, dove cambiano le sentenze, perché ormai non importa più a nessuno. E quindi la vita Mirafiori è una vita in cui si sente, le persone si sentono tradite, molto tradite, inascoltate, e purtroppo molte volte giudicate con cinismo, come dire, dovevano pensarci prima, si sapeva che la Fiat prima o dopo andasse via, no? Oppure cosa vuole un cinquantenne che si è indebitato per comprarsi un frigorifero nuovo, no? Cioè, quindi questo senso di collettività che era molto forte anche nelle nostre battaglie sociali, o questa resistenza si è tradotta in individualismo e in flash mob, cioè cose rapide di 5 minuti che poi dopo si passa ad altro. Allora, questo film vuole in qualche modo, prova ad essere, ad innescare una riflessione, quindi al di là del gusto estetico, ma insomma è anche piaciuto, per cercare di fare un passettino indietro e ripensare a questa epoca che non c'è più, che probabilmente è giusto che non ci sia più, però cercando di salvarne il ricordo e i valori. Stefano, per questo film che tipo di distribuzione avete pensato? Allora, noi abbiamo una distribuzione che lavorerà nel lungo periodo, nel senso che noi partiamo dal 27 agosto perché io volevo davvero partire ormai con l'inizio della stagione, quindi partiamo dal 27 agosto, siamo a Roma, al Greenwich, poi in altre città d'Italia, Milano, Torino, insomma Bologna, Firenze, e poi proseguiremo, ma con l'idea di restare il più possibile nelle sale, anche cercando l'aiuto del pubblico, perché su questo è fondamentale, soprattutto sulle opere piccole. Questo è costato insomma 450.000 euro, sembrano tantissimi, per me no, sono tanti proprio, però poi sono veramente pochi per fare un film con questo tipo di caratteristiche, no? Sì. E l'idea che abbiamo, che io lancio anche, insomma, perché poi mi potete cercare su Facebook, insomma, ormai siamo tutti raggiungibili, ed è già in piedi, quella poi di andare con il film in alcuni luoghi simbolici, no? Io ne ho citati alcuni, Taranto, insomma, Terni, Casale Monferrato, e ripetere poi un percorso più di impegno civico, per insomma alimentare davvero un dibattito. Quindi partiamo adesso, poi io spero che continuerà ancora nelle sale cinematografiche, magari si estende nelle altre insomma province più piccole, però con l'idea di fare davvero un movimento e una comunità attorno al film. Bene. Stefano, appunto, che noi siamo piccolini, cioè, siamo piccoli, per cui ogni tanto Haber mi dice: ma non ho visto il trailer in televisione. Ma il trailer in televisione costa quanto tutto il film. E questo è un altro film, se spulcio un po' Facebook e trovi dei commenti positivi. Stefano, io ti ringrazio, un abbraccio, tutti grazie, i riferimenti voi, ce li hai lasciati, ci speriamo a presto. Allora, a prestissimo, grazie per insomma l'opera culturale che fate. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Un abbraccio e a presto. Ciao Stefano. Ciao. Stefano Di Polito, regista del film Mirafiori Luna Park, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Con noi Ivano De Matteo, regista del film La Bella Gente, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Ivano, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti, grazie. Senti, sì, si può dire che ce l'hai fatta? Si può dire. Cazzarote, si può dire. Dopo 5 anni, oggi l'ho scritto, l'ho detto, lo urlo. Non vedo l'ora che arriva alle 8:30, quando sarò in sala a presentarlo, perché per me è veramente una grossa battaglia. Tra l'altro una battaglia passata anche per il Teatro Valle Occupato, perché c'è stata una proiezione lì e affollatissima, è stata una gran bella serata. Una proiezione che ricordo con piacere, perché insomma c'era tutto il teatro pieno, c'erano state 700-800 persone, poi c'è stato un attimo un piccolo intoppo prima della proiezione, che vennero i carabinieri per bloccare la proiezione, poi riuscimmo poi finalmente a farla, insomma, quindi fu una grossa emozione, ma fu l'unica. Oltretutto poi dovetti proiettare il film con una chiavetta, cioè con un file. Oltretutto per me aver girato il film in pellicola e vederlo insomma con fare tutto il lavoro che si era fatto dietro, però riuscì a farlo, quindi l'emozione fu tanta per tutti, ma oggi è quello che io volevo per il film, cioè l'uscita nei cinema normali con tutto i crismi di un film. Sono molto contento, però nacque tutto, cioè diciamo da là poi ci fu, passò per il Valle, poi passò per i tribunali, visto che poi dopo c'è la denuncia per quella proiezione, e quindi poi dopo da lì poi è andata avanti tutta la storia. Senti, raccontiamo dalle origini, insomma, come è partito il progetto, come l'hai sviluppato, Ivano? Ma il progetto è nato da, insomma, più o meno come tutti i film che scrivo con la mia compagna, con Valentina Ferlan, da immagini che vediamo, insomma, situazioni, oppure articoli su giornali, come fu quella volta per gli equilibristi, che avevamo letto un articolo sull'Espresso, oppure come i nostri ragazzi avevamo letto il libro di Koch. In questo caso era proprio un'immagine che avevamo avuto mentre andavamo in campagna, così invitati ad un pranzo, c'era questa immagine di questa ragazza, una ragazza ghanese credo, insomma, con un ombrellino, con una seggioletta rossa, una poltroncina. Da là poi abbiamo scritto questa, non critica, insomma, questo affresco, questa analisi su un po' sull'ipocrisia dei nostri giorni, anche nostri. Ecco, proprio a questo proposito diamo alcuni elementi di trama, come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta, Ivano? Se dovessi raccontarlo in breve, una famiglia progressista, borghese, intellettuale, che va alla sua casa di campagna in Umbria, e la moglie, che è un attivista, cioè una psicologa, che lavora nei centri contro le violenze alle donne, vede una prostituta che viene picchiata in strada, decide di, come dice il maio, di prenderla, rapirla, cioè nel senso proprio prenderla di forza, portarla a casa e da lì aiutarla poi ad inserirsi nel contesto, nella società italiana, no? Sì. Nella legalità e tutto quanto, ma arriva poi a un certo punto il figlio di questa famiglia interpretato da Elio Germano, e tutto cambia, quindi cambiano le certezze, tutto va a morire, cioè dal momento in cui viene toccato in qualche modo i tuoi affetti personali, i tuoi affetti anche materiali, allora tutto cambia, tutto prende un altro aspetto, tutto prende un altro punto di vista. Ricordavo, insomma, i due interpreti sono Monica Guerritore e Antonio Catania per la famiglia, che sono i genitori di Elio Germano, e dall'altra parte c'è una famiglia invece più liberale, diciamo, che sono Giorgio Gobbi e Iaia Forte, che sono amici, diciamo, ma soltanto estivi, si incontrano soltanto lì in campagna, e insieme vivranno questa situazione imbarazzante e particolare con l'arrivo di questo elemento estraneo, di questa ragazza dell'est Ucraina, interpretata da Victoria Larchenko. E poi in mezzo a loro c'è anche un'altra attrice, che è Miriam Catania, che è la fidanzatina storica del nostro protagonista. Da quel momento, dall'arrivo, diciamo, della ragazza, da Nadia, la prostituta, lì cambia tutto, cambia veramente tutto. E il film, anche se c'ha delle note di commedia, perché si ride anche abbastanza, poco, ma si ride anche, perché c'è una commedia molto amara, molto tagliente, poi insomma diventa sempre più, diciamo, più forte. Ivano, questo film cronologicamente viene prima degli Equilibristi, si può dire che è il primo tassello poi di una riflessione che è andata avanti con i due film successivi? Ma io, questo, guarda, è nata da sé questa trilogia. In realtà adesso io la chiamo la trilogia, ma non è che che io o che noi avevamo pensato di fare una trilogia, ma in realtà poi è diventata la trilogia La bella gente, Gli Equilibristi e I nostri ragazzi, perché poi in realtà quando scriviamo, forse inconsciamente, andiamo a toccare dei temi o delle dinamiche degli equilibri. In questo caso poi piano piano è diventato che, usando sempre la famiglia, raccontando sempre la famiglia, insomma, perché come ho sempre detto sono molto attratto dalle dinamiche familiari, venendo da delle famiglie molto molto molto numerose, la mia e quella di mia madre e di mio padre, quindi sono sempre stato attratto, e quindi in questo caso io uso proprio la famiglia come specchio della società, come microcosmo, e se nella bella gente è un elemento esterno che va a scardinare e a distruggere questa famiglia, questo gruppo familiare perfetto e integro, quindi da fuori entra e spacca, negli equilibristi era invece un elemento interno che era Mastandrea che usciva per la separazione e spaccava la famiglia, e nei nostri ragazzi invece erano gli elementi che stavano già dentro la famiglia, i figli che implodevano dentro questa principio. Senti, per realizzarlo hai messo insieme un cast importante. E questo sì, ti ripeto, diciamo che c'è una grandissima guerritore, io ho apprezzato tantissimo il suo lavoro, Antonio Catania che conoscevo ma sempre nei ruoli più brillanti, in questo caso fa tutt'altro ruolo, Elio Germano già, sono inutile che lo presento, ma ci conosciamo perché l'avevo già diretto al teatro quando aveva 18 anni, in Ultimo Stadio, era il mio primo film, che aveva appunto 18 e mezzo. E poi c'era Victoria Larchenko che avevo già diretto anche lei in Ultimo Stadio, per la ragazza diciamo straniera, in realtà anche sono 15 anni ormai che abita a Roma, ma lei è una ragazza ucraina, un'attrice. E Giorgio Gobbi, che tutti magari conoscono come Ricciotto del Marchese del Grillo, in realtà poi ha fatto tantissime cose, tantissimo lavoro. Iaia Forte, un'attrice teatrale anche cinematografica che stimo tantissimo, appunto Emilia Ancarena, era un bel gruppo che ci siamo ritrovati in questi casali in Umbria, quindi era diventata una grande famiglia, mangiavamo, si cucinava, la sera si provava e poi il giorno dopo giravamo. Sì. Quasi una comune è diventata. Sì, no, immagino poi ognuno ha dato il suo contributo poi al film in termini professionali e umani. Lì ognuno credo che abbia dato il massimo, anche perché insomma con pochi soldi, con poco tempo, è stato fatto veramente col cuore il film. Abbiamo tutto quello che serviva, però insomma bisognava correre molto, abbiamo girato in 4 settimane, insomma poi ci sono anche delle scene delicate. Quindi però il fatto di averlo girato tutto in un ambiente, in questo bellissimo agriturismo vicino Orvieto, un paesino vicino al Orvieto, proprio immerso in un bosco, quindi ringrazio lo scenografo Luca Servino che ha trovato questo posto incredibile, e lì ci siamo innamorati tutti, abbiamo detto no, giriamo qua, e questa è la location del film. Senti Ivano, dopo la vittoria nel riuscire a farlo uscire, si è creata una forte attenzione da parte della stampa, e questo si è riflesso pure nel numero di copie che è aumentato fino alle 40, se non sbaglio. Siamo intorno ai 35-36 siamo arrivati. No, ma io sono contento perché all'inizio per me era bastava una copia, nel senso io era diventata comunque una questione di principio, prima doveva uscire, quindi a me se 3 anni fa mi avessero detto esci con 2 copie, ha detto basta che esce, perché ormai ero nella disperazione più totale, il film era bloccato in cavilli burocratici, denunce, come dire, cattiveria, ormai era diventata una guerra, ma anche dove non vinceva nessuno, quindi alla fine doveva essere in 10 copie 10, 15, poi piano piano lo chiamavano proprio anche le sale, quindi lo volevano, a Roma esce in 6 sale, quindi insomma oggi io sarò presente al cinema Eden alle 8:30, ma poi esce all'Alcazar, al Maestoso, al Fiamma, alle Urcine, a Roxy, a Milano sono contentissimo, uscirò anche al Messico, al cinema Messico, all'Arlecchino, poi andrò domani a Torino a presentarlo ai Fratelli Marx, insomma al Lumière di Bologna, al Principe di Firenze, insomma, fino a Cagliari, Palermo, Catania, insomma, Bari, Napoli, il film è stato preso da tutti, insomma, quelle 35-36 copie stanno sparse in tutta Italia, poi magari speriamo, se dovesse andare bene il primo fine settimana, magari lo chiederanno qualcun altro, se dovesse crescere per me sarebbe non una vittoria di più. Come dicevo prima, c'è stata una forte attenzione da parte della critica e della stampa, no? Oggi è uscito un grosso pezzo di Malcolm Pagani sul Fatto, ieri c'era la recensione, una pagina della Silvana Silvestri che ringrazio, ma è uscito Repubblica, è uscito Corriere, cioè tutti i giornali, ma le televisioni, quindi insomma voglio dire, abbiamo fatto una conferenza stampa il 24 agosto, questo c'era 35 gradi l'altro ieri, c'erano 60 giornalisti, insomma è un film comunque che ha 5 anni, quindi io pensavo, dico sì, c'è l'interesse, ma non credevamo, invece insomma un po' la storia del film, un po' la storia dentro al film, le due cose insieme, poi il fatto che poi abbia fatto altri film dopo che insomma che sono andati, come dire, penso bene, insomma, tra gli equilibristi e i nostri ragazzi, quindi paradossalmente forse il film è meglio che poi alla fine sia uscita in questo momento, anche perché è un film più attuale adesso che quando l'avevo girato. Bene Ivano, allora da oggi nelle sale ci sentiamo spero presto, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, ci vediamo al cinema. Ci vediamo al cinema. Ciao Ivano, ciao. Ivano De Matteo, regista del film La Bella Gente, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Bene, questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Tutti i riferimenti per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi e la trasmissione più nel complesso potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, c'è anche la pagina Facebook. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci potete ascoltare in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito della radio, sull'home page, c'è Ascolta la diretta. Stiamo cercando di metterci in collegamento con Giorgia Cecere, che è appena è arrivata da un viaggio, quindi la ricontattiamo a breve per parlare del film, del suo film In un posto bellissimo, anche questo in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Come dicevo, Giorgia Cecere, regista del film In un posto bellissimo, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Giorgia. Grazie, saluti a tutti, ciao. Ciao, senti, ci racconti un po' di questo film, intanto per chi ci ascolta qualche elemento di trama. Guarda, è la storia di una vita, insomma, soprattutto questi personaggi, abbiamo cercato con Pierpaolo Pirone, con cui l'ho scritto, veramente di restituire la complessità ma anche la semplicità di esistenze che trascorrono nel quotidiano, come quella di Lucia, interpretata da Isabella, di Andrea suo marito, del figlio, e la pienezza anche, che spesso però nasconde così degli incontri di ciò che si deve fare, di ciò che riteniamo debba esserci nelle nostre vite per esserne soddisfatti. E poi sotto però scorre un fiume che andrebbe in tutt'altra direzione, quindi più che una trama, diciamo, sono due che poi a volte fiora, a volte si inabissa e finché solo alla fine, insomma, il disegno di questo puzzle si compone. È molto... Sono felice che ho visto che per la prima volta ieri sera abbiamo presentato a un pubblico. Ecco, che quello che speravo di più è che gli spettatori e le spettatrici entrassero dentro e si trovassero a casa loro e fossero intimamente toccati, come, perché è un film che riguarda profondamente ciò che siamo noi oggi in Italia, il nostro proprio stato d'animo. E mi sono molto ovviamente disarmata per arrivare a questo tipo di verità di ogni trucco del mestiere, e ho visto che, ecco, che gli spettatori sono rimasti molto colpiti proprio da questo, dal fatto di molti mi hanno detto: ma è la mia storia, come facevi a saperla? Che è una cosa che, insomma, in questo caso mi fa particolarmente piacere. Come è cominciato tutto, Giorgia? È cominciato, per quanto riguarda questo film, da un bisogno, il bisogno di, sono come cittadina, come persona, sono molto infastidita, preoccupata, amareggiata dal fatto che continuamente dall'esterno ci vengono dati codici di lettura del cambiamento del mondo, sempre terrorizzanti. È come se fossimo portati a spasso così dall'esterno e non sapessimo più cosa pensare noi davvero, cosa sentire noi davvero. Allora quello che io volevo ritrovare attraverso questo film e comunicare a più persone possibile, e che tutto ciò che il cambiamento che comunque sempre c'è stato e sempre ci può spaventare, anche questa ossessione, no, rispetto agli stranieri, all'invasione, al fatto che rischiamo sembra di perdere tutto per colpa di queste grandi trasformazioni storiche e economiche. Ecco, intanto noi siamo restituire a ognuno di noi la dignità del proprio sentire e di stare al mondo da esseri umani, che poi sarebbe una forza, forse ormai troppo dimenticata, proprio del nostro essere italiani, con tutta la sensibilità necessaria e anche la curiosità necessaria, perché tanto per quell'altra strada ci procuriamo solo angosce e di sicuro non si risolve nulla. E quindi, ecco, nasce da questo bisogno profondo che io identifico con un'attitudine più femminile, che non è detto che non abbiano anche tanti uomini, questa cosa che sembra quasi considerata stupida, e la sensibilità non è né debolezza né stupidità. La sensibilità è l'unica cosa che ci distingue dagli animali, e quindi cerchiamo, insomma, di non perderla. E parlo di una sensibilità anche intelligente, che si sforza di comprendere tutto ciò che è diverso, tutto ciò che è complesso. E siccome anche per retaggio culturale noi siamo ricchi di questo, ripeto, in particolare noi italiani, mi sembra che veramente c'è un avvilimento che non ci meritiamo e verso il quale siamo sospinti e pressati ogni giorno per merie ragioni poi politiche di propaganda. In questo senso per me è anche un film molto politico. Ecco, un film che ha quattro, per come l'ho visto io, quattro elementi fondanti: la protagonista donna, l'essere migrante oggi in Italia, la vita di provincia con la sua routine e poi un passato doloroso. Sì, c'è un po' di roba, eh? Sì. Nel senso, e uno dice, e poi ci sono anche appunto le solitudini. Sì. Le solitudini che non è che sono dovute semplicemente al fatto che sembra molto difficile trovare quella via diretta, immediata, no? E secondo me è quella cosa lì che appunto viene spesso identificata con la debolezza, con la irrazionalità, con l'essere infantile, con l'essere anche in un modo irresponsabile, no? Lucia all'apparenza sembra una donna che ha demandato tutte le responsabilità al marito, che invece è un uomo molto solido, che sembra sapere molto bene tutto ciò che va pensato, fatto, no? Ma anche, dico, proprio rispetto al mondo esterno. Ecco, per me tutte queste caratteristiche veramente andrebbero invece molto rivalutate, e se c'è una cosa che mi sembra che associo alla forma peggiore di ottusità, è proprio questa specie di decisionismo mentale, no? Questo, come dire, queste semplificazioni, questo sì, ma è anche questo trattare la stessa debolezza, ripeto, come un problema, no? È come se ci venisse detto, cerchiamo di diventare sempre più forti, più decisi, più nel difenderci, nel proteggerci, ma appunto, ripeto, mi sembra sbagliato e molto avvilente. Allora, in questo caso questo tipo di caratteristiche, con molte sfumature, perché poi nessuno qui rappresenta il bene e il male. Andrea è un uomo assolutamente, per altri versi adorabile, un ottimo padre, quando diciamo nei momenti, in fondo è quello che dice il suo amore per sua moglie, ancora più, in maniera ancora più sentita, che il contrario. Quindi e però nel momento è proprio questa incapacità di capire che spostandosi di lato, semplicemente togliendosi dalle abitudini mentali, non è detto che ci si ritrova in un territorio sbagliato. Non c'è nulla che sia di per sé sbagliato, neanche nel caso si sente bisogno di farlo, aiutare un ragazzo che ha la febbre molto alta, facendolo entrare in casa in un giorno molto freddo. Noi abbiamo costruito, no, questo paradosso dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista considerato oggi normale, lei fa una cosa assurda in realtà, e invece non lo è per niente. Fa capire appunto come è solo un fatto di prospettiva, e penso che la prospettiva migliore è sempre quella che in cui usiamo i nostri sensi più sviluppati, le nostre intelligenze emotive più, appunto, sì, più forte. Sì. E la provincia, perché ci serviva un mondo, è una provincia del nord che veramente già protetto, all'apparenza molto tranquillo, sotto cui far scorrere questo fiume, è una bella provincia, una provincia. Poi ad Assi, tra l'altro, ringrazio ancora tutta la città, gli abitanti, cioè, ci siamo trovati benissimo, e poi perché il paesaggio del nord, devo dire che mi ispira molto. Anche se sembrerà strano, insomma, io sono del sud, ho fatto il primo film lì, però è stato tutti questi elementi del nord, non solo il paesaggio ma l'atmosfera, mi sembrava che risuonassero molto bene con l'anima di Lucia. Molto bene. Senti Giorgia, da oggi nelle sale in quante copie esce, in un posto bellissimo? Esce in più di 60 copie, siamo veramente dappertutto, quindi insomma adesso si vede. Io ripeto, non so, mi fido molto del pubblico, non solo rispetto a questo film, in generale mi sembra che sia molto meglio di quanto non si crede in genere, molto più, perché sente in maniera più profonda e più vera certi bisogni, perché non è che siano tanto anche questa cosa di interrogarsi dentro, di vedere sullo schermo situazioni molto vicine alle proprie e poter seguire un percorso che comunque è un percorso di, il percorso che fa Lucia è un percorso di grande coraggio, questa apparente questa donna semplice, goffa, timida, apparentemente appunto molto debole, in realtà trova in se stessa e alla fine è la persona più coraggiosa di tutte. Quindi ecco, è anche un film che io spero che dia molto coraggio, senza nascondere però quanto dolore c'è sempre nella vita, cioè non è che lo sappiamo purtroppo, ma è così. Anche dal dolore, dal fatto di riuscire a viverlo, tu ricordavi appunto la perdita che ha avuto Lucia, come ha perso un'amica molto cara quando era ragazza, quindi sicuramente c'entra questa cosa nella sua sensibilità. E sì, però mentre per gran parte del film sembra difendersene e tenerla solo per sé, e poi in realtà l'aiuta molto. Riuscire a vivere quel dolore e uscirne dall'altra parte, sa che può contare su se stessa, su quello che sente lei. Sì. Ecco, avere molta più fiducia in noi, questo io dico. Bene. Come esseri umani. Giorgia, io ti ringrazio, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie a voi. grazie tanto. Alla prossima. Un abbraccio a voi e a tutti quanti. Ciao. Ciao Giorgia. Giorgia Ceceri, regista del film In un posto bellissimo, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. In collegamento con Valerio De Paolis per parlare del film Taxi Teheran, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Valerio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, come state? Buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori. Questo film viene distribuito da una società nuova che si chiama Cinema. Ok, allora... Ed è il primo film, quindi è... Di cinema. È il battesimo. Okay. È il battesimo, primo film per cinema. Esatto. Allora, un film importante perché... un regista è sotto, diciamo così, sotto l'occhio del ciclone. Beh, il film è importante perché racconta, ha delle storie al suo interno che sono molto importanti, che sono delle storie di vita in Iran, dei rapporti tra le persone. È un film che ha un grande amore per il cinema, per la libertà, una grande aspirazione democratica. È importante anche perché il regista, come molti di voi sapranno, è inviso alle autorità del regime iraniano e quindi è stato chiuso da 6 anni, non in un carcere, ma messo in una situazione di non lavoratività, non può fare assolutamente niente. Ciò nonostante, lui riesce di nascosto a fare dei film che sono molto particolari, perché girati con pochi mezzi ma pieni di significato, girati con dei suoi amici, con delle persone che lavorano con lui, con dei collaboratori, e quindi insomma riesce a sopravvivere, a coltivare l'idea di poter tornare un giorno libero, ma non si è autodisperato, insomma è uno che continua a lottare e a fare film. Sì. Oh, tra l'altro tutto si svolge, lo possiamo questo anche svelare, all'interno di un taxi a Teheran, e nella varia umanità che lo attraversa, oltre anche ad una pulsione poetica, e c'è anche in qualche modo uno spaccato in piccolo della società. Beh sì, perché lui fa praticamente il tassista. In Iran non esistono dei tassi come in Europa, ci sono delle macchine che girano per la città e che raccolgono tutte le persone che hanno bisogno di andare in un posto, fanno un tragitto, poi scendono, poi ne prendono un'altra, poi scendono, quindi non c'è un tassi privato, è un tassi diciamo aperto alle persone, e quindi su questo tassi si alternano varie tipologie di personaggi, degli uomini giovani, delle donne, tipologie di personaggi, ma anche tipologie sociali, quindi attraverso le chiacchiere, un po' come si fa nei tassi in Italia, uno si mette a parlare col tassista, no? È una cosa che capita spesso, e vengono fuori dei racconti, delle opinioni, così, delle visioni della vita da parte dei passeggeri. Anche qui succede questo, e quindi attraverso questi una decina di personaggi che vanno su e giù dal taxi abbiamo come hai detto giustamente tu, uno spaccato della vita sociale iraniana. Nonostante poi sia tutto in movimento, la tecnica di ripresa è particolare, nel senso che è la tecnica di ripresa sì, è molto particolare, perché ci sono due o tre telecamerine molto piccole che noi non vediamo, che stanno all'interno, che guardano all'interno del taxi e all'esterno del taxi, e quindi lui secondo me deve aver fatto molte prove con i suoi attori che poi sono anche suoi amici, che non tutti sono attori perché c'è anche la sua nipotina, deve aver fatto delle cose per cui quando tu vedi il film hai assolutamente l'impressione di una enorme naturalezza, cioè non pensi per un po', per mezz'ora non pensi neanche che sono degli attori, ma pensi veramente a una situazione di normalità, di un signore che guida un taxi con delle persone che si alternano, entrano, escono eccetera. Quindi questa è stata un po' la sua grande bravura, oltre a fare delle riflessioni importanti sulla vita, sulla politica, sulla società, sui rapporti umani eccetera. Da un punto di vista tecnico lui è stato anche molto bravo ed è riuscito a fare questa cosa qua, di raccontare come se tutto fosse veramente molto molto vero. Senti Valerio, ci hai parlato della sua situazione rispetto al regime. Ecco, che prospettive ci sono rispetto al suo lavoro artistico per il prossimo futuro? Beh, io penso che lui, intanto mi auguro una cosa, che questi accordi che ha fatto l'Iran con l'Occidente, questa fine dell'embargo, creeranno delle situazioni di maggiore apertura nel paese, e quindi come succede in queste situazioni, no? C'è una grande massa che si muove, anche delle piccole situazioni possono andare un po' a cambiare in conseguenza di questo. Quindi penso che probabilmente ci sarà maggiore, non dico libertà, ma maggiore tolleranza in Iran, e quindi mi auguro che lui possa godere di maggiore libertà espressiva. Però io penso che lui se la caverà, perché tra l'altro ha dimostrato che in condizioni così disperate di non poter fare nulla alla luce del sole riesce a fare dei film che sono dei piccoli capolavori, quindi riesce ad aggirare l'ostacolo con molta creatività e molto ingegno. Certo, mi auguro che da oggi in poi, da domani in poi, lo facciano lavorare liberamente, perché è un grande autore e ci può raccontare delle bellissime storie. Valerio, come hai incontrato Taxi Teheran e come hai deciso poi di portarlo in Italia? Da Taxi Teheran sono andato a Berlino a gennaio, c'è il festival, e dovevo stare 2 o 3 giorni, è stata tutta una serie di casualità sfortunate. La mattina del primo giorno c'era la proiezione di questo film, sono andato a vederlo, mi è piaciuto, ho visto che nella platea era un film che era molto piaciuto a tanti compratori, a tanti giornalisti, così mi sono informato su chi lo vendeva una mia vecchia amica con cui avevo lavorato per tanti film, l'ho chiamata e quindi niente, poi l'ho comprato, ecco, dato un po', poi le cose vanno così, insomma, comprando i film non è che è tanto complicato. Visto che si tratta di un esordio, ci parli un po' di questa avventura cinema? Ma dunque, l'avventura cinema comincia dopo la fine della BIM, no, la BIM va avanti dopo la fine del mio rapporto con la BIM. Io pensavo che la mia esperienza come distributore si potesse considerare conclusa, insomma, dopo 32 anni aver fatto distribuito tantissimi film. Poi, tornando così a vita privata, mi sono accorto che mi mancava molto l'emozione, insomma, quella voglia di intraprendere, di comprare dei film, andare in ufficio, di lavorare, tutta quella adrenalina che ti viene quando fai questo lavoro, perché sai, alcuni film vanno bene, alcuni film vanno male, insomma, quindi si creano degli stati d'animo diversi. Ho capito che non ce l'avrei fatta non fare niente, così ho fondato questa società, ho chiamato un paio di persone che conoscevo, ho cominciato appunto andando a Berlino, e poi da lì adesso abbiamo comprato altri film che usciranno e penso che saremo stabilmente nel mercato, ecco. Senti, allora, ti chiedo in quante copie esce il film oggi e poi i riferimenti internet per saperne di più su cinema. Dunque, oggi il film esce con 42 copie, perché ci sono alcune sale che sono ancora chiuse, dalla prossima settimana saremo con 70 copie. E la domanda internet, io che sono poco tecnologica, tecnologico, non l'ho capita. No, nel senso, c'è un vostro sito internet, immagino. Abbiamo un sito, certo, che si chiama Cinema, è la cosa migliore, siccome cinema è una parola molto diffusa, bisogna fare www.cinemadistribuzione. Cinema Distribuzione. Valerio, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e alla prossima. No, ma grazie a voi e tanti auguri per la trasmissione. Grazie. Ciao, a presto. Valerio De Paolis di Cinema sul film Taxi Teheran, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Mario Mazzarotto di Movimento Film, produttore del film A Blast, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto. Mario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, un film che ci parla di, in qualche modo, di Grecia. Raccontaci un po', per chi ci ascolta, diamo qualche indicazione di trama. Beh, innanzitutto è un film che abbiamo iniziato a pensare insieme alla produzione greca del film. Il film è un film greco coprodotto dall'Italia, proprio nei momenti in cui la crisi greca è esplosa nella sua drammaticità, e il regista Attila Zumerkas ha voluto raccontare questa crisi attraverso una storia d'amore con di una coppia che vive ad Atene e vive sulla propria pelle la crisi economica che il paese sta attraversando. È un film molto intenso, che ha dei toni di commedia e dei toni di tragedia insieme, e Silla Stumerca si riesce a raccontarci lo sprofondare di questa storia d'amore in una Grecia che sta attraversando una delle sue crisi più dure. Trovo che questo saper raccontare la società attraverso le relazioni personali renda il film molto originale ed intenso e affascinante. Ecco, forse mi hai già risposto in parte con questa affermazione. Volevo chiederti quali sono gli elementi che vi hanno convinto come produzione a realizzarlo. Beh, intanto che è stata una sfida e forse anche raccolta, forse l'abbiamo anche vinta, quella di realizzare un film in un momento storico in cui in Grecia era difficilissimo addirittura mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi abbiamo chiamato a raccolta degli attori straordinari, un regista straordinario che hanno accettato questa sfida in un momento molto difficile, proprio per reagire a una situazione difficile, non solo nel realizzare il film, ma anche nel volerla raccontare. E questo è stato sicuramente stimolante, artisticamente stimolante, riuscire a fare un'impresa in un momento in cui tutti gli elementi ti dicono di non farla, insomma. E questo, io mi sono associato a questa impresa e ne ho apprezzato lo sforzo. Poi indubbiamente lo stile e lo sguardo cinematografico di Silla Zumerkas, che il pubblico italiano aveva già conosciuto con un suo film precedente, che è Terra Madre, che era stato ospite alla settimana della critica di Venezia di qualche anno fa, che io trovo un regista, tra i registi greci trovo che sia un regista assolutamente da tenere d'occhio, insomma, uno dei più interessanti del panorama attuale della cinematografia greca. Mario, ci sono almeno due elementi che mi sembrano fondamentali per questo film. Il primo, una protagonista al femminile che è anche madre e sposa, e dall'altro una crisi che vediamo attraverso la questione delle tasse, la questione delle banche, la questione dell'estrema destra di Alba Dorata. Una protagonista molto intensa, qui ad una sua interpretazione secondo me notevole. La nostra protagonista è un'attrice nota al pubblico greco, viene dal teatro, dal cinema, e qui offre questo ruolo da protagonista femminile, come dici tu, di madre e sposa, molto molto intenso e anche anticonvenzionale. Racconta un ruolo fuori da qualsiasi stereotipo. È una donna, non voglio raccontare troppo la trama, ma insomma, che fa delle scelte molto estreme per sopravvivere, per fronteggiare questa crisi. E sì, e poi la crisi economica vissuta dalla gente, cioè quella che poi subisce le angherie delle banche, le angherie degli uffici delle tasse e le difficoltà di poter portare avanti la propria vita quotidiana al di là degli articoli dei giornali e dei proclami dei politici, perché insomma vive sulle proprie spalle e sulle proprie vite gli effetti di una crisi che devasta che rovina la propria vita personale. Quindi un film che racconta la crisi dal punto di vista di chi la subisce. Sì. E anche gli effetti negativi di questo, come dicevi tu, attraverso le violente immagini che ci ricordano, che vengono riportate nel film, di quegli episodi terribili, incancellabili, di quelli che sono gli esponenti di un'estrema destra che ha causato dei disordini in Grecia abbastanza notevoli. Sì, poi infatti le immagini a cui fai riferimento è l'individuazione di un nemico, che è il migrante, che insomma, mi sembra l'ultima ruota del carro a fronte di una crisi che invece parte proprio dal sistema economico, come dicevamo, basato sul potere delle banche e sul meccanismo infernale delle tasse. il debole contro cui scagliarsi, sì. L'ultima ruota del carro contro cui sfogare la propria frustrazione, senza rendersi conto che è un falso obiettivo. Sì. E poi c'è un altro elemento che mi permetto di raccontare, che secondo me è importante, certo. nel film, come questa coppia vive la propria storia d'amore attraverso la relazione sessuale. Nel film ci sono delle scene di sesso girate secondo me meravigliosamente, dove il sesso è raccontato come gesto d'amore, ma anche come nella sua evoluzione, nel suo evolversi nella storia, attraverso gli anni che il film racconta, attraverso una trasformazione, la trasformazione che questa coppia subisce. Il sesso vissuto come sintomo di una trasformazione del rapporto, e credo che sia un elemento erotico e anche molto interessante. Sì. Mario, da oggi nelle sale in quante copie è Blast? Microcinema è il nostro distributore, credo che stiamo parlando di circa 30 copie in giro per l'Italia, in delle sale importanti dove il pubblico potrà insomma vedere il film al meglio, insomma, in quelli che definiamo gli schermi di qualità. Bene, allora un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Mario. Ciao. Bene, Mario Mazzarotto di Movimento Film, produttore del film A Blast, in uscita in sala oggi giovedì 27 agosto, e con lui terminiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito della radio, il sito internet della radio, che è ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. C'è anche la pagina Facebook, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. È tutto, buon proseguimento, alla settimana prossima.